Radio 24 Reportage. Benin City, capitale del traffico di prostitute verso l'Europa, di Giampaolo Musumeci e Gianni Rosini. These shoes, whenever I put them on, ogni volta che indosso queste scarpe mi torna in mente il periodo trascorso in Russia. La Russia è un posto terribile dove nessuno dovrebbe andare. A San Pietroburgo vivevo come una schiava, non avevo libertà di parola, non ero libera, non potevo uscire, stavo 24 ore al giorno rinchiusa. Quando è partita per la Russia, Naomi era appena maggiorenne. Le era stato promesso che a San Pietroburgo avrebbe avuto una vita felice, avrebbe lavorato e potuto così aiutare la sua povera famiglia. Quelle scarpe col tacco bianco sono l'unica cosa che ha portato indietro. Sono stata reclutata da un uomo, vivevamo nello stesso quartiere, mi ha presentato a quella che sarebbe stata la mia padrona, Pat. Mi ha chiesto se ero interessata a lasciare il paese e le ho detto di sì, ma non mi ha detto cosa sarei andata a fare. Ha usato delle parole per attirarmi. Il mio reclutatore è una persona molto popolare nel quartiere, è un musulmano, e per questo ho pensato che il suo aiuto sarebbe stato la cosa migliore, perché è una persona molto popolare. Qua in Nigeria li chiamiamo Alaji. Arrivano a migliaia ogni anno da sole, attraversano il deserto, sfidano le violenze e i soprusi in Libia e affrontano la morte sulle carrette del mare che quotidianamente solcano le acque del Mediterraneo nella speranza di un approdo in Sicilia. Le più fortunate riescono a ottenere un visto turistico per paesi dove andranno a cercare una vita migliore, ma là troveranno solo la strada. Le ragazze di Benin City, capitale dello stato di Edo, nel sud della Nigeria, rappresentano la maggior parte delle donne nigeriane che ogni anno giungono via mare in Europa. Il loro destino molto spesso è quello di andare ad accrescere il numero di prostitute africane a basso costo, di cui sono piene le strade europee. Quello del traffico delle ragazze dalla Nigeria all'Italia, punto di approdo per le giovani che saranno poi smistate in tutta Europa, è un mercato in rapida ascesa. Nel 2014 ne sono sbarcate 1.450, 5.600 nel 2015, oltre 11.000 nel 2016, 4.000 nei primi sei mesi del 2017. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha stimato che l'80% di queste ragazze è destinato al mercato della prostituzione. L'85% di loro ha iniziato il proprio viaggio dalla stessa città, Benin City. La capitale dello stato di Edo è diventato l'hub nigeriano della prostituzione, una città che nel corso degli anni è riuscita a costruire un'economia parallela basata sul traffico di esseri umani. Non si tratta però di un racket gestito esclusivamente da malavitosi, come spiega Exodus, ex trafficante che per 20 anni si è arricchito sulla rotta tra Nigeria e Libia, ma una fonte di approvvigionamento per l'intera comunità. Non esiste un unico boss, racconta. Ascolta, mettiamo che una persona che vive in Libia stia venendo a Benin City e sia in contatto con altri conoscenti in Italia. Questi gli dicono, abbiamo bisogno di una ragazza, trovane una e portacela. La persona allora verrà qui, troverà una ragazza, la manderà in Italia e così dall'Italia invieranno soldi. 4-5.000 euro per ogni donna che sbarca nel vecchio continente. E questa la cifra che un trafficante può arrivare a guadagnare. E poi 40-50.000 per lo sponsor che dall'Italia finanzia il viaggio. Soldi facili se si ha la capacità di convincere a partire le migliaia di ragazze che sognano una nuova vita in Europa. Guadagni che chiunque può realizzare. Anche per questo il sistema non ha una struttura verticistica come nelle organizzazioni criminali europee, spiega Barista Nduka Nyanwene, comandante del NAPTIP di Benin City, la polizia antitraffico. I grandi boss del traffico non sono qui, molti di loro sono all'estero perché è là che le ragazze pagheranno le madame, cioè gli sponsor. Parliamo di un network, di un gruppo clandestino. Non c'è solo una persona, non c'è un re del traffico identificabile. Se hanno dei re, quelli sono all'estero. Il comandante non può però negare che in questo enorme business si siano inseriti i cults, confraternite trasformatesi ben presto in organizzazioni criminali in stile mafioso, che a Benin City sono endemiche. Abbiamo ricevuto un report dell'intelligence, racconta il poliziotto, che indica il coinvolgimento dei cults nel traffico di esseri umani. Abbiamo arrestato un noto membro dei cults, ma qui non è visibile, non è facile capire chi sia il boss, perché generalmente operano sotto traccia. È diverso da gruppi più avanzati come i vostri, tipo la mafia italiana, racconta ancora il poliziotto. Sappiamo che esistono, ma nessuno di loro ha mai ammesso di essere un leader di un cult. Così, queste persone operano in una condizione di quasi totale impunità e con l'appoggio di una grande fetta della popolazione che continua a vedere nell'espatrio di un membro della famiglia il miglior modo per uscire dalla miseria nella quale vivono. Roland Woa, coordinatore dei progetti dell'IDEA Renaissance, una ONG che si occupa di riabilitare e reinserire nella società ragazze vulnerabili o vittime di tratta, di persone senza scrupoli ne ha conosciute molte. Un network così fluido e radicato nella comunità, dice, è il principale ostacolo proprio alle indagini dell'antitraffico. Trafficking in those states or in Nigeria is not necessarily by an organized group. Il traffico di Yes, esseri there are umani nello stato di syndicates who Edo are non involved è in trafficking, necessariamente in mano but alla it is not an criminalità. organized Esistono gruppi syndicate. coinvolti nel traffico, ma non Almost si tratta di un everyone is sistema trafficking, and convince organizzato. someone Quasi tutti sono potenziali trafficanti. Se hai la capacità di that convincere le you persone che ci are sono forced prospects prospettive in in Europe, Europa e a and the lasciare il person paese, allora sei can un buy into trafficante. it, you are a trafficker. Solomon Okodua, presidente della Youth Awareness on Migration, Development and Reintegration, spiega il ruolo delle famiglie. A lot of families encourage their daughters to travel, Molte famiglie to build incoraggiano houses le for proprie them, figlie a partire, to costruire take them, case to per help them loro, to take care of their permettergli di siblings, diventare quel tipo di to persone help che them sono apprezzate nella società. to Non chiedono alla propria become figlia the cosa mother stia that they facendo in Italia. adoring in Voglio the essere franco con community voi, and continua society. l'operatore They don't dell'ONG. ask Le for famiglie their sono lives. molto felici quando le proprie figlie lasciano il They don't paese. ask for their Tutte children. generalmente sono felici, questa è la If verità. quite Ed è frankly, una verità sulla quale sono tutti families d'accordo. A loro non importa se le figlie si are very prostituiscono. happy and very Tutti in Nigeria comfortable. sanno che se una ragazza sta andando in Instead of Europa worry about diventerà una money, money prostituta. doesn't Dicono: care. non mi Let them interessa live come their fai i way. soldi, vai e porta i Hardly any money soldi. doesn't concern me. Queste Once case these che vedete houses attorno a questa via sono these belle, ma sono il houses frutto are dei beautiful. ricavi della They are prostituzione. cool to behold, but these are proceeds of prostitution. Vivere il territorio e conoscere le persone del proprio quartiere, della propria comunità, sono le caratteristiche più importanti per arricchirsi come reclutatore e trafficante. Questi sfruttatori studiano le vittime e le avvicinano puntando sui loro punti deboli, come è successo a Joy, 45 anni, 4 figli, che in Italia ha vissuto e lavorato sulla strada per 3 anni e mezzo. After that, four children, my husband died. Dopo la nascita del mio quarto So figlio, racconta, everything mio marito è is morto, tutto è difficult diventato for me to difficile, balance. nessun aiuto da parte di mia No madre, help mio from padre o mother, della no help famiglia, from ero father, no frustrata, ho help from pensato anche al husband, suicidio. family. Vedevo i miei bambini che So non I avevano just abbastanza cibo da posited mangiare justice. e questo mi faceva soffrire. I was Così ho deciso di thinking partire per to commit assisterli. suicide Ecco perché sono venuto in because of Italia. the suffering. I They reclutatori, say my ti children conoscono, no food studiano la to tua give, storia, to lo sanno eat. se non hai un marito, per Especially esempio. A since volte I was avvicinano anche working donne for sposate. I reclutatori So I vengono in posti come decided questi o to nei mercati, commit individuano le persone che non money stanno in bene, che house soffrono, for iniziano proprio lì di andare in Italia, così my possono cousin's fare soldi, children. comprare una bella casa, So magari un'automobile. I Li decided ingannano. go. Una persona che non ha scelta, che sta Maybe you know soffrendo, that è facile che your dica ok, parents. vengo. I Ma non sono advise preoccupata per i them, miei tell figli, them perché io you parlo can't spesso go con loro, li out metto in anymore. guardia, Tell you, dico I loro di non advise them not andare. to go. Così i reclutatori si spostano verso le periferie più povere, i villaggi rurali, dove la consapevolezza del rischio è inferiore, dove le condizioni di vita peggiorano man mano che ci si allontana dai centri urbani, così come il livello di istruzione. Lo si capisce anche entrando in uno dei principali mercati cittadini di Benin City, dove arrivano commercianti dalle campagne e dalle periferie. Anche per questo motivo, i mercati di strada sono tra i principali luoghi di reclutamento, dove donne come queste giovani venditrici vedono la partenza di una figlia verso l'Italia come l'ultima opzione per There's sopravvivere. no job opportunity there. So every child that leaves Nigeria knows that he or she is going there for prostitution. Non ci sono opportunità di lavoro in Europa, si lamenta la ragazza, e quindi ogni giovane che parte dalla Nigeria sa che finirà a fare la prostituta. Ok, racconta, guarda qui, stiamo soffrendo in questo momento. Le persone devono prendersi cura delle famiglie, mandare i figli a scuola. Il governo non ci aiuta a uscire da questa situazione. Non c'è lavoro qui. Io mi sono laureata nel 2004 e non ho trovato alcun lavoro. Non ho scelta, mi sono sposata e adesso sono qui per potermi prendere cura dei miei bambini. Se tu, governo, non vieni a tirarmi fuori da questa situazione, a permettermi di accudire i bambini, rimangono due opzioni. La prima, posso cercare lavoro per me e per i miei figli, ma se non lo trovo, mi rimane la seconda, cioè andare all'estero per fare i soldi e prendermi così cura della famiglia. Molte di queste donne poi si affidano alla grazia divina, come ripetono al mercato, o alla superstizione, molto diffusa in Nigeria, specie nelle zone rurali. Per questo i trafficanti e i reclutatori costringono molte delle giovani ragazze a sottoporsi a riti juju, una pratica che deriva dalle credenze tradizionali africane. Con questo rituale, il prete juju lega la vittima al suo aguzzino, costringendo la ragazza a ripagare il proprio debito con lo sponsor. Se la ragazza dovesse violare l'accordo, la credenza vuole che la maledizione ricadrà su di lei e sui familiari. Uno di questi leader spirituali è il prete Juju di Azizia che apre le porte del suo santuario mentre celebra un rituale su una ragazza 28enne in procinto di lasciare la Nigeria per raggiungere l'Italia e diventare così una prostituta. E passport è un arriere.